con l'attore Marco Quaglia per parlare dello spettacolo Icos, che sarà a Roma all'Angelomai dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Marco, ben trovato. Grazie, Ci presenti questo lavoro? grazie mille. Allora, è un lavoro che è nato 4 anni fa per quanto riguarda me, perché mi hanno coinvolto in realtà, cioè Stefano Patti, che è il regista e l'altro attore, siamo in due in scena, mi ha chiamato 4 anni fa, io stavo a Milano, stavo lavorando al Teatro Franco Parenti, insomma mi ha detto: io ho questo testo molto, molto bello, mi piacerebbe farlo con te. Allora gli ho detto: guarda, mandamelo, se mi intriga lo faccio, se no ci salutiamo. E mi è piaciuto molto. Poi io non potevo scendere a Roma perché stavo lavorando lì, quindi lui è salito a Milano, abbiamo cominciato a fare le prove lì ed è nato poi al Teatro Studio 1 a Roma. E da allora poi è passato a Carrozzeria Notte, che è un altro spazio molto interessante. Poi da lì l'abbiamo, essendo sia io che Stefano, siamo per caso, siamo dopo un po' detti che eravamo mezzi inglesi, tutti e due abbiamo mamma inglese, quindi abbiamo poi tradotto il testo in inglese e l'abbiamo fatto al Fringe di Edimburgo per un mese, poi l'abbiamo portato a Londra, poi in un festival a New York, poi in Irlanda. Quindi questo testo, diciamo, che ha fatto il giro un po' per il mondo ed è un piccolo miracolo, no, di queste produzioni indipendenti, perché è nato veramente in una cantina 4 anni fa e adesso sta continuando a girare, quindi insomma noi siamo molto, molto contenti. Per chi ci ascolta, di cosa si parla? È ambientato in un futuro, diciamo, distopico. Io sono un misterioso uomo, abbastanza all'inizio potrebbe sembrare malvagio, nel senso che ha appena ucciso 1 milione di persone perché nella sua testa, diciamo, è l'unico modo di salvare l'umanità, perché facendo dei calcoli economici, insomma, ha una visione di questo tipo, no? Dell'economia, della storia, dell'umanità, eccetera, eccetera. E Stefano fa la parte di un giornalista che viene a capire i miei motivi, diciamo così. E da lì poi è tutto ambientato in un bunker, in questo bunker appunto di mia proprietà. Da lì diciamo che poi ci sono 2 o 3 colpi di scena, anche nel rapporto tra i due, insomma, tra questi due uomini. È come una partita a scacchi ideologica, ma con tinte da serie Netflix, diciamo. Quali aspetti del testo ti hanno convinto? Guarda, l'autore si chiama Lorenzo Deliberato, lui è un giovane autore con cui ho lavorato, anche giovane, nel senso che adesso ha quasi 30 anni, quindi quando l'ho conosciuto io era un ragazzetto molto, molto, molto bravo. E ho fatto anche altre cose, ho fatto recentemente un altro testo suo che si chiama Childhood, ed è uno di quegli autori che, so, se noi fossimo adesso a Londra, no, ci sarebbe preso a calabbiato dal Royal Court Theatre, che è uno di questi teatri che prendono ragazzi giovani che scrivono molto bene, li pagano per 3 anni e questi intanto sfornano testi e poi questi testi diventano, no, delle hit mondiali e vanno a Broadway ovunque, no? Quindi Lorenzo per me è uno che andrebbe trattato così. Poi qui siamo un po' più in difficoltà rispetto a questo e quindi diciamo che nel mio piccolo, nel senso che io sono molto più grande di lui, sto cercando di farlo conoscere il più possibile attraverso il mio lavoro, no? Cioè lavorando con lui e in effetti sta avendo dei riconoscimenti perché è veramente bravo. E quindi la scrittura soprattutto mi ha intrigato. E poi lavorare con Stefano, devo dire che proprio avevo avuto un intuito su di lui, perché è una persona, a parte che è una persona molto, molto in gamba, ma molto, molto bravo, molto determinato, e ci siamo trovati veramente bene, quindi una bella squadra. Dopo la tappa romana avete già delle date? Abbiamo delle date che in questo momento mi pare che andiamo a Tivoli a febbraio sempre, e poi stiamo aspettando delle risposte dal nord Italia, quindi non ti saprei dire. Ok, per saperne di più ci lasci dei riferimenti web per le informazioni? Sì, dunque, se c'era Stefano a casa era sicuramente meglio, però diciamo che c'è la pagina Echoes proprio dello spettacolo su Facebook, dove ci sono tutte le informazioni. Per quanto riguarda poi l'Angelo Mai, in questi giorni basta scrivere a prenotazione@angelomai.org. E poi c'è la nostra produzione, la 369 gradi, sono veramente preziosi, e loro anche sul loro sito hanno informazioni riguardo allo spettacolo. Bene, e allora ricordiamo lo spettacolo Echoes a Roma, all'Angelo Mai, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attore Marco Quaglia. Un abbraccio, in bocca al lupo, e ci si vede lì. Grazie, ci vediamo lì, grazie mille. Ciao. Ciao.